Chiesi a Françoise di uscire dalla camera. Avrei voluto vedere immediatamente Albertine. All'orrore per la sua menzogna, alla gelosia dell'ignoto, s'aggiungeva il dolore che si fosse lasciata fare dei regali. È vero che io gliene facevo di più, ma una donna che manteniamo non ci sembra una mantenuta finché non sappiamo che anche altri la mantengono. E d'altra parte, poiché non avevo mai smesso di spendere per lei tanto denaro, l'avevo presa malgrado questa bassezza morale. Gliel'avevo lasciata questa bassezza e forse l'avevo accresciuta, forse creata. Poi, siccome abbiamo il dono di inventarci delle storie per cullare il nostro dolore, siccome arriviamo quando moriamo di fame a persuaderci che uno sconosciuto sta per lasciarci una fortuna di 100 milioni, immaginai Albertine fra le mie braccia che mi spiegava in una parola come fosse per la somiglianza della fattura che aveva comprato l'altro anello, come fosse stata lei a fargli mettere le sue iniziali. Ma la spiegazione era ancora fragile. Ancora non aveva avuto il tempo di affondare nella mia mente le sue benefiche radici e il mio dolore non poteva essere lenito così in fretta. E riflettevo che tanti uomini, mentre parlano con gli altri della bontà della loro amante, patiscono le stesse torture. Così facendo mentono agli altri e a se stessi, ma non mentono del tutto. Con quella donna passano veramente delle ore di dolcezza, ma quelle bontà che esse hanno per loro davanti agli amici e consentono loro di vantarsi, o che hanno con loro in privato e consentono loro di benedirle. Quante ore nascondono durante le quali l'amante ha sofferto, dubitato, fatto ovunque vane ricerche per sapere la verità. A sofferenze siffatte è legata la dolcezza d'amare, di estasiarsi ai più insignificanti discorsi d'una donna, che sappiamo insignificanti, ma nei quali mettiamo il suo profumo. In quel momento non potevo più deliziarmi di respirare nel ricordo quello di Albertine. Prostrato, con i due anelli in mano, guardavo quell'aquila spietata il cui becco mi attanagliava il cuore, le cui ali dalle piume in rilievo s'erano portate via la fiducia nella mia amica e sotto i cui artigli la mia mente ferita non poteva più sfuggire per un solo istante alle incessanti domande sullo sconosciuto di cui l'aquila sicuramente simboleggiava il nome senza tuttavia consentirmi di leggerlo, e che lei sicuramente aveva amato un tempo e sicuramente aveva rivisto di recente, perché era stato il giorno così dolce e familiare della passeggiata insieme al Bois che io avevo visto per la prima volta il secondo anello, quello in cui l'aquila dalle piume in rilievo sembra intingere il becco nella pozza di sangue chiaro del rubino. Del resto, che non smettessi mai da mattina a sera di soffrire per la partenza di Albertine, non voleva dire che non pensassi che a lei. Da una parte, poiché da tempo il suo fascino s'era via via esteso a oggetti che finivano con l'esserne molto lontani, ma non per questo erano meno elettrizzati dalla stessa emozione che lei mi ispirava, ecco che se qualcosa mi faceva pensare a Encarville o ai Verdurin o a una nuova interpretazione di Léa, venivo investito da un nuovo flusso di sofferenza. D'altra parte, ciò che io chiamavo pensare ad Albertine era un pensare al modo di farla tornare, di raggiungerla, di sapere cosa facesse. E così, se durante quelle ore di incessante martirio un grafico avesse potuto rappresentare le immagini che accompagnavano la mia sofferenza, si sarebbero viste quelle della Gare d'Orsay, dei biglietti di banca offerti a Madame Bontemps, di Saint-Loup curvo sullo scrittoio inclinato d'un ufficio postale mentre riempiva il modulo d'un telegramma per me, mai l'immagine di Albertine. Come, per tutto il corso della nostra vita, il nostro egoismo vede di continuo davanti a sé i traguardi cari al nostro io, ma non guarda mai quel medesimo io che non smette di contemplarli, così il desiderio che dirige gli atti discende verso di loro ma non risale a se stesso, sia che troppo utilitario si getti nell'azione e disdegni la conoscenza, sia ricerca dell'avvenire per correggere le delusioni del presente, sia infine perché la pigrizia della mente la spinge a scivolare lungo il facile pendio dell'immaginazione anziché a risalire il pendio dirupato dell'introspezione. In realtà, durante queste ore di crisi, in cui ci giocheremmo tutta la vita, man mano che l'essere da cui essa dipende rivela meglio l'immensità dello spazio che occupa per noi, non lasciando in tutto il mondo niente che non ne sia sconvolto, proporzionalmente l'immagine di quell'essere diminuisce, sino a farsi non più percepibile. In tutte le cose troviamo, tramite la nostra emozione, l'effetto della sua presenza. Lui stesso, la causa, non lo troviamo da nessuna parte. Fui in quei giorni talmente incapace di rappresentarmi Albertine che avrei quasi potuto credere di non amarla, così come mia madre, nei momenti di disperazione durante i quali fu incapace di rappresentarsi la nonna, tranne una volta nell'incontro fortuito d'un sogno di cui, sebbene addormentata, sentì a tal punto il valore che si sforzò con quante energie le restavano nel sonno di farlo durare, avrebbe potuto accusarsi, e in effetti s'accusava, di non rimpiangere sua madre la cui morte la uccideva, ma i cui lineamenti sfuggivano al suo ricordo. Perché avrei dovuto credere che ad Albertine non piacessero le donne? Perché aveva detto, soprattutto negli ultimi tempi, che non le piacevano? Ma la nostra vita non poggiava forse su una perpetua menzogna? Non una sola volta mi aveva chiesto perché non posso uscire liberamente, perché vi rivolgete agli altri per sapere cosa faccio, ma era, in effetti, una vita troppo singolare perché non me lo chiedesse nel caso che non avesse capito il perché. E al mio silenzio sulle cause della sua claustrazione non era comprensibile che corrispondesse, da parte sua, un analogo e costante silenzio sui suoi perpetui desideri, i suoi ricordi innumerevoli, i suoi innumerevoli desideri e speranze. Françoise aveva l'aria di sapere che mentivo quando alludevo al prossimo ritorno di Albertine. E la sua convinzione sembrava fondata su qualcosa di più della verità alla quale la nostra domestica si rifaceva abitualmente, secondo cui i padroni non amano essere umiliate di fronte ai loro servitori e non danno loro a conoscere della realtà che quanto non si discosta troppo da una finzione lusinghiera atta a mantenere il rispetto. Stavolta, la convinzione di Françoise sembrava fondarsi su qualcos'altro, come se lei stessa avesse risvegliato, alimentato la diffidenza nell'animo di Albertine, sovreccitato la sua collera, insomma, l'avesse spinta al punto in cui le fosse possibile predire come inevitabile la sua partenza. Se era così, la mia versione d'una partenza momentanea, da me conosciuta e approvata, non poteva che suscitare l'incredulità di Françoise. Ma la sua idea dell'indole interessata di Albertine, l'esagerazione con cui nel suo odio ingigantiva il profitto che Albertine, secondo lei, ricavava da me, potevano in qualche misura indebolire la sua certezza. Così, se alludevo davanti a lei come a una cosa affatto naturale al prossimo ritorno di Albertine, Françoise fissava il mio volto, allo stesso modo di quando il maggiordomo, per farle dispetto, le leggeva, cambiando le parole, una notizia politica per lei difficilmente credibile, ad esempio la chiusura delle chiese e la deportazione dei curati, e lei, pur trovandosi all'altra estremità della cucina e non potendo leggere, fissava istintivamente e avidamente il giornale, come se avesse potuto vedere se c'era scritto proprio così, se non me lo stavo inventando. Ma quando vide che, dopo aver scritto una lunga lettera, cercavo l'indirizzo esatto di Madame Bonpland, s'accrebbe in lei il terrore, così vago fino a quel momento, che Albertine tornasse. Vi si aggiunse un'autentica costernazione quando il giorno dopo dovette consegnarmi con l'altra corrispondenza una lettera sulla cui busta aveva riconosciuto la scrittura di Albertine. Si chiedeva se la partenza di Albertine non fosse stata una semplice commedia, supposizione che l'affliggeva doppiamente, da un lato rendendo definitivamente sicura la permanenza di Albertine in casa nostra, e dall'altro costituendo per me, e dunque dal momento che ero il suo padrone per lei stessa, l'umiliazione d'esser stato raggirato da Albertine. Per quanto fossi impaziente di leggere la lettera della mia amica, non potei impedirmi di osservare per un istante gli occhi di Françoise, da cui era sparita ogni speranza, e di dedurre da tale presagio l'imminenza del ritorno di Albertine. Così, come un amatore di sport invernali, vedendo partire le rondini, ne conclude con gioia che i freddi si avvicinano. Alla fine Françoise se ne andò, e non appena fui sicuro che avesse richiuso la porta, aprii, senza far rumore per non tradire la mia ansia, la lettera seguente. Amico mio, grazie di tutte le buone cose che mi dite. Sono a vostra disposizione per disdire la Rolls, se credete che io possa esservi utile, e credo di sì. Basterà che mi scriviate il nome del commissionario. Voi vi lascereste frastornare da questa gente che si preoccupa di una cosa sola, vendere, e cosa ve ne fareste di un'auto, voi, che non uscite mai? Sono molto commossa che abbiate serbato un buon ricordo della nostra ultima passeggiata. Per parte mia, vi assicuro che non la dimenticherò mai, quella passeggiata due volte crepuscolare, perché scendeva la notte e noi stavamo per lasciarci, e che solo la notte totale potrà cancellarla dalla mia mente. Sentii, certo, che l'ultima frase non era che una frase, e che Albertine non aveva potuto serbare fino alla morte un così dolce ricordo di quella passeggiata da cui, senza dubbio, impaziente com'era di lasciarmi, non aveva tratto alcun piacere. Ma nello stesso tempo mi meravigliò quanto la ciclista, la giocatrice di golf di Balbec, che prima di conoscermi non aveva letto che Esther fosse dotata, e come avessi avuto ragione a pensare che stando con me si era arricchita di nuove qualità che la rendevano diversa e più completa. E così, la frase che le avevo detto a Balbec, credo che la mia amicizia vi sarebbe preziosa, che io sia proprio la persona che potrebbe darvi quel che vi manca, e come dedica su una fotografia le avevo scritto con la certezza d'essere provvidenziale. Quella frase, detta senza crederci, unicamente per far sì che ritenesse vantaggioso vedermi e superasse la noia che poteva provarne, anche quella frase aveva finito per esser vera. Come tutto sommato, quando le avevo detto che non volevo vederla per paura di innamorarmi di lei. L'avevo detto perché sapevo che, al contrario, con la frequentazione costante il mio amore si smorzava, mentre la separazione lo esaltava, ma in realtà la frequentazione costante aveva fatto nascere un bisogno di lei infinitamente più forte dell'amore dei primi tempi a Balbec, cosicché anche quella frase si era dimostrata vera. Ma tutto sommato la lettera di Albertine non faceva in nessun modo progredire le cose. Non mi parlava che di scrivere al commissionario. Bisognava uscire da questa situazione, darle uno scossone, e concepii la seguente idea. Feci immediatamente recapitare ad André una lettera in cui le dicevo che Albertine era da sua zia, che mi sentivo molto solo, che mi avrebbe fatto un immenso piacere venendo a stare per qualche giorno da me e che, non volendo far nulla di nascosto, la pregavo di avvertirne Albertine. E contemporaneamente scrissi ad Albertine, come se non avessi ancora ricevuto la sua lettera. Amica mia, perdonatemi quello che capirete perfettamente. Detesto a tal punto far le cose di nascosto che ho voluto che ne foste avvertita sia da lei che da me. Ho, ad avervi così dolcemente in casa, la cattiva abitudine di non stare da solo. Poiché abbiamo deciso che non tornerete, ho pensato che la persona che meglio d'ogni altra vi potrebbe sostituire, perché comporterebbe per me il cambiamento minore e vi ricorderebbe di più, fosse André, e le ho chiesto di venire. Perché tutto ciò non apparisse troppo brusco, non le ho parlato che di pochi giorni, ma ha detto fra noi, penso che questa volta sia per sempre. Non credete che io abbia ragione? Sapete che il vostro piccolo gruppo di fanciulle di Balbec è sempre stato la cellula sociale che ha avuto per me il più grande prestigio e al quale, un giorno, sono stato più felice di venire aggregato. È sicuramente quel prestigio a farsi ancora sentire. Poiché la fatalità dei nostri caratteri e la sfortuna della vita hanno voluto che la piccola Albertine non potesse diventare mia moglie, credo che avrò comunque una moglie, meno incantevole di lei, ma alla quale maggiori conformità di natura permetteranno forse di starmi più felicemente accanto, in Andrea.